te cosa ricorda il safari di Fantozzi? A me ricorda lo zoo safari di Fasano, perché io sono pugliese. Della selva di Fasano. La selva di Fasano, in piena Puglia, cioè fra trulli, ulivi e terra rossa di ferro, cioè sorge questo zoo safari pieno di leoni devastati dall'alopecia, sfibrati, stanchi, cioè scimpanzé impazziti di noia. Era l'ospizio dei leoni praticamente. Però il clou dello zoo safari di Fasano, negli anni 80, soprattutto in cui c'era una certa libertà, ci si poteva entrare anche con la macchina, poi hanno messo solo il trenino di ferro, si poteva entrare nell'areopago dei babuini, animali ferocissimi con occhi a fessure, 400 babuini, sembrava proprio il senato romano però di babuini. E mio padre, cioè, la macchina stipata, la 145 Sting beige, stipata di parenti, cioè, dai ragazzi andiamo a vedere i babuini, cioè, appena entriamo c'era, a parte che c'era la scena madre. Cioè, beige in quanto mimetica. Sì. Dopo poi diventate di un altro colore, però i babuini ci fissano tutti con questi occhi a fessura, come sai, alla controra siciliana, ci guardano, cioè, a parte che c'erano tutte le scene madri, c'era il babuino morto sdraiato in un angolo, due babuini in piena copula, quindi c'era tutto, c'erano bambini, insomma, c'era tutto quello che c'era da vedere sulla vita proprio. In pochi secondi si avventano 40 babuini sopra noi, siamo coperti di pelle rosate di babuini. È il ciclo della vita, come nel Re Leone. Esatto. La macchina è colata di urina, di escrementi vari, di babuini, c'è un autolavaggio al contrario. Tuo padre col tergicristallo. No, mio padre è fermo, immobile, fingendo disinvoltura. Un babuino gigantesco mette le natiche di fronte a mio padre e si accanisce sullo specchietto, fa lo sradica, poi si specchia, guarda l'infinito dentro lo specchietto dell'orizzonte, lo scaglia come Kubrick oltre l'areopago e poi usciamo senza fanali, senza nulla. Cioè, vi siete divertiti, ragazzi? Beh, sì, ci siamo divertiti. Una bella avventura.